State ascoltando Easy Rider. Music for a film, quindi una sorta di titoli di coda. Questo era uno struggente brano dall'album OK Computer dei Radiohead, altra a mio avviso pietra miliare, ma non solo a mio avviso, anche a detta di moltissima critica musicale mondiale. facciamo un salto indietro nel 1997 con questo, proprio a dimostrazione che ogni decade ha i suoi momenti positivi nella produzione musicale. Il Radiohead sicuramente, almeno con l'album OK Computer, hanno dimostrato veramente di essere qualcosa di grande e di importante. E questa sera mi sto autocelebrando in tutto e per tutto, lo sto facendo mediante la musica e le vibrazioni trasmesse da vari musicisti da varie parti del mondo. Ovviamente c'è una prevalenza di Europa, ma io vorrei osare un po' di più e nel calderone dei tanti gruppi minori, se volete anche un po' sfigati, nei quali ho avuto fortuna e occasione di militare, ce n'è uno che voglio ricordare questa sera con particolare affetto, perché in qualche modo mi ha un po' cambiato la vita, mi ha cambiato modo di approcciarmi alla musica, allo strumento della batteria, con il quale ancora adesso ogni tanto mi cimento. A proposito, vi rimando questo appuntamento, ancora stasera non ne ho parlato, però mi piacerebbe che voi sapeste e mi piacerebbe vedervi venerdì sera, quindi esattamente tra due sere, in Piazza Liberty a Milano, perché con la Rock FM All Stars Band, insomma, celebreremo un po' di buona musica rock and roll, oltre che la nostra presenza come militanti di questa radio che purtroppo sta per chiudere. L'ambito è quello del Telefilm Festival, insomma, noi cercheremo di divertirvi come è nostra consuetudine ultimamente. Allora, il gruppo che ricordo con particolare, ripeto, attenzione e affetto si chiamava The Carnival of Fools, li abbiamo ascoltati anche altre volte, un quartetto che mi ha un po' insegnato, ripeto, a stare al mondo dietro le pelli, quelle poche pelli che mi permettevano di usare. E uno dei brani che dal vivo mi esaltava di più, era anche uno dei più dirompenti, si intitolava Black Song e Love Song. Siamo nel 1992 e allora voglio ricordarvi anche i Carnival of Fools. You love me so, pray that you come back. Black Song, a Love Song, ovviamente una canzone nera non può che essere una canzone d'amore, almeno per i Carnival of Fools dalla provincia di Milano. Mi piace ricordare sempre con un certo affetto la provenienza, quindi Seregno, Brugherio, Sesto San Giovanni, insomma l'Interland che conta, la Brianza che cominciava a contare, questo era un po' il suono, il momento un po' più venato di punk rock che i Carnival of Fools trascinavano nei loro concerti dal vivo, dei quali, ripeto, ho veramente un ricordo quasi orgasmico, ecco, dal punto di vista delle sensazioni, delle vibrazioni, è stato uno dei gruppi che più mi ha emozionato, nei quali più mi ha emozionato suonare dal vivo. Ovviamente anche la Rock FM All Stars Band, guai. Chi non ci crede, insomma, siamo pronti a dimostrarvelo. Con le ultime due date del Farewell Tour che abbiamo imbastito per l'occasione, quindi un maggio all'insegna del live per questi poveri DJ di Rock FM. Allora, proseguiamo con la musica. Anche il prossimo pezzo potrebbe rientrare nei classici di Easy Rider, un nome di quelli abusati nelle mie due ore di solito, e allora facciamoli rientrare. Da New York abbiamo già incontrato i Blue Oyster Cult, adesso andiamo a ritrovare i Type O Negative con il loro album, forse uno dei due di maggior successo. Uno era October Rust e l'altro era questo Bloody Kisses, quindi Baci Insanguinati, un album di svolta datato 1993. Across upon a bedroom wall, from grace she will fall. An image burning in her mind and between her thighs. Dying gunman, full on. Jesus Christ Looks Like Me sono le parole di un Peter Steele particolarmente ispirato da New York, Type O Negative, una donna cristiana, Christian Woman, un singolo di particolare successo, un momento in cui la band Type O Negative diventa seminale proprio per tutta una serie di gruppi che ha preso i Type O Negative come riferimento per sviluppare queste sonorità crossover a cavallo tra il gotico, la grande melodia e ovviamente il metallo più oscuro, e tutto ciò lo dobbiamo ancora una volta a una band americana. Ricordiamo il merito della maggior parte dei gruppi americani, degli artisti americani, è quello di essere arrivati a certe intuizioni per primi. Non a caso il rock and roll è nato proprio in quella terra. Purtroppo non rimane ancora molto tempo, io mi riservo, come ho specificato prima, oltre a ringraziarvi per la valanga di messaggi che questa sera in maniera quasi da record ho ricevuto, mi riservo appunto di continuare domani, quindi domani ascolteremo altra grande musica che questa sera per motivi di tempo non riusciremo ad ascoltare, quindi i famosi dischi che hanno lasciato un segno, i dischi che mi hanno cambiato la vita nel bene e nel male. In genere nel bene comunque. Vi esorto ancora, continuate a usare 335-100-7777. Saluto e ringrazio anche gli amici di The Company che sono venuti a trovarmi qui personalmente in radio. Tra l'altro loro hanno l'accesso, questa chiave d'accesso si è chiamata per qualche volta Fish, quindi è grazie a loro che abbiamo avuto qui Fish. Io personalmente l'ho trovato, l'ho intervistato, insomma ho chiacchierato con lui, ho condiviso dei piccoli e piacevoli momenti con lui. E allora, visto che parliamo di questo, io posso solo dedicare a loro, a questi splendidi amici, questo disco che so che condividiamo, ecco, è il caso di sprecare ancora una volta questo verbo, questo termine. Si parla ancora di condivisione, visto che a detta di molti fans di questa band il loro probabilmente album migliore è proprio Clutching at Straws, dal quale vi faccio ascoltare The Last Straw. Clutching at Straws si conclude con questa meravigliosa The Last Straw, un altro punto dei dischi fondamentali secondo Mox. Questo è stato un po' il percorso di questa sera, i 100 dischi ideali per capire Mox. Si apre con questa ventina di brani, ma non è ancora finita. Io colgo occasione per gli ultimi 4 minuti e mezzo che il buon Maurizio Faulisi insieme al Matthews mi concederanno per inoltrarmi ancora una volta nel meraviglioso mondo del cinema con un'altra colonna sonora. Se prima abbiamo ascoltato gli italianissimi, anzi i romanissimi Goblin con Suspiria nel 77, adesso facciamo un salto in avanti già negli anni 2000 soprattutto, un film di Sofia Coppola, il film di debutto per questa regista, che altri non è che la figlia di Francis Ford Coppola, Il giardino delle vergini suicide, The Virgin Suicides, un'altra delle mie colonne sonore preferite, visto che il duo in questione francese che si chiama Air trae le sue radici proprio da gruppi come Pink Floyd e Kraftwerk, che guarda caso oggi siamo riusciti ad ascoltare qui a Easy Rider. Allora, vi lascio con questo ultimo pezzo e dopo rientro e vi inoltro il mio abbraccio circolare che questa sera più che mai ve lo meritate. Our hands You're My Playground Love, bellissimo pezzo, tema dal film The Virgin Suicides, ossia Il giardino delle vergini suicide, con il quale Mox si congeda da voi, vi lascia nelle mani di Maurizio Faulisi con la replica di Garage Land, e volevo semplicemente dirvi grazie. Questo è stato per me un meraviglioso compleanno, il mio 39esimo in vostra compagnia, in compagnia di musica che ho amato visceralmente, e vorrei anche inoltrare a voi questo pensiero. Il periodo Rock FM, lavorativamente parlando, come è facile immaginare, è stato il più bello della mia vita fino adesso, quindi auspico che sarà ancora così in futuro, anche se ho un po' di riserve, nel senso che penso che sarà abbastanza difficile ritrovare una cosa così meravigliosa, così intensa come quella che voi e noi insieme a voi abbiamo vissuto in tutti insieme. Allora, da parte mia l'appuntamento è rimandato a domani pomeriggio. Alcuni di noi si materializzeranno negli studi di Rock TV, per cui se volete potrete vederci lì, parleremo un po' della radio. Poi domani sera regolare appuntamento con Easy Rider e con tutti i programmi del palinsesto di Rock FM, e ovviamente venerdì dal vivo in Piazza Liberty a Milano con la Rock FM All Stars Band. Grazie a tutti, vi voglio bene. Rock FM ha presentato Easy Rider, un viaggio musicale pensato e condotto da Mox Cristadoro.